Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani nostro, che sei nell'etere, sia santificata la zanzara, venga la Nappi, sia fatta Febbal, come in diretta così in podcast. Dacci oggi il nostro sgarbi quotidiano e rimetti a noi i mostri vegani, come noi ci ribelliamo a Sebastiano Barisoni, e non condurre con Parenzo, ma liberaci dal traffico. Amen. Che lodato Gesù Cristo, sempre. Ragazzi, un po' di voci di gente molto molto incazzata per questa storia delle banche. Qui adesso ti voglio dire però che questo ingresso era buono, questa preghiera like era molto divertente. Ma è la roba che arriva. Questo era divertente. È la roba che arriva, questo meraviglioso numero 3, claro. Che tu bistratti. No, dipende, da tratti. Questo ci ha messo. No, perché qui c'è dell'ingegno. Cioè c'è del sarcasmo, c'è dell'ironia. Capito, ma non si può c'è essere ingegno, tutti uguali. Uno però. Che chiama che mi piace la figlia. Capito? Qui non c'è ingegno. Sì, ma non siamo tutti uguali, per fortuna. E le persone non sono tutte uguali. Tu vorresti degli automi come? Che intervengono. No, ma qui c'è degli automi. Tutti intelligenti, tutti questa bravissimi. Questa preghiera laica, liberaci da Parenzo, Bariso, meraviglioso. Ma questa è poesia, è lirismo. Comunque, il numero dove inviare le vostre preghiere laiche, come dice Parenzo, ecco, è il 393-71-71-701. Però io stavo parlando di altro. Stavo parlando delle innumerevoli voci che sento in televisione, sì, radio, eccetera, anche qui, per carità, la zanzara, sui truffati, su quelli che ci hanno rimesso un sacco di soldi, con suicidi annesso, come abbiamo visto, sì, per le banche, insomma, tutta la storia che sapete. Diamo fuoco alle polveri. Sono venuto a sentire, si posso stare tranquillo, perché sennò io non faccio come quelli che si è ammazzato, ammazzo io a loro. Avete sentito? Ammazzo io loro. Un po' come Savino da Bari ieri sera, eh? Sì, Savinuccio. Savinuccio da, l'hai fatto incazzare come una biscia. Savinuccio da Bari. Savino da Bari. Mi ha chiamato dicendo: sì, fammi intervenire, lo voglio ammazzare, Parenzo, no, lo voglio ammazzare. Non c'è più la trasmissione. Lo voglio ammazzare, Parenzo, lo voglio ammazzare. Fammi intervenire, guarda che è finita. Giuseppe, ti piace? Giuseppe, ti voglio bene. Aspetta, Giuseppe. Senti quest'altro. Io ho perso circa 10.000 euro. Non so neanche di quello, tante volte mi verrebbe anche la voglia di dire di farla finita, perché la notte non dormi. Il giorno, se tu ci pensi, ti viene le lacrime all'occhio. Ho perso 10.000, a volte penso di farla finita. Vi traduco perché magari no, la voce è un po' contrita, è un po' disperata, non si sente, ma non sto pigliando per il culo queste persone, per carità. No. Mi sono recata in banca e dopo uno sfogo di pianto, una crisi di nervi, non lo so che cosa potrebbe essere stato, mi è stato detto che avevo perso la mia piccola liquidazione investita dopo tanti anni di sacrificio, oltretutto sono anche disoccupata, mi è stato detto anche dai che non è niente, se avevi perso tua figlia era peggio. C'è qualcuno? Mamma mia. Davanti allo sportello bancario, immagino, no? Il direttore, un funzionario, avrebbe detto a questa signora: se perdevi tua figlia era peggio. Ecco, io gli avrei sputato in faccia, temo, eh. Poi c'è il nipote della persona che si è ammazzata a Civitavecchia. Ci cioè hanno costretto le persone per bene al suicidio, che lui se parlava di morte non sapeva neanche che cavolo significava. Diceva, ma è possibile che tuo zio ha fatto quel gesto simile? E ha detto, mio zio non è lui che l'ha fatto il gesto, l'hanno costretto. Faccio questo gesto non per i soldi, virgola, ma per raggiro delle banche che mi hanno fatto lì. E poi comincia cara moglie mia, ti ho amato tanto e tutto contro la banca. Poi naturalmente sono tantissime le voci che avete sentito sul fatto che no, ci hanno detto che erano titoli sicuri, eccetera eccetera. L'idea che io mi sono fatto da ignorante di questa materia, come moltissimi di voi, mi metto sullo stesso piano vostro, cioè di tutti quelli totalmente. Che ci stanno ascoltando, però l'idea che mi sono fatto è una molto semplice, l'ho sentita dire prima da un economista liberista più o meno che si chiama credo De Nicola, il quale ha detto una cosa semplice: è ingiusto, non è giusto rimborsare queste persone. Sicuramente sono state fatte delle porcherie, ma informazione molto scarsa, eccetera eccetera, però è sbagliato, perché altrimenti ci sono un sacco di persone, no, di azionisti di aziende fallite, bisognerebbe rimborsare pure questi, no? Cioè in teoria bisognerebbe rimborsare tutti. Vabbè, punto e basta, punto a capo. Ora però a me fa impazzire fanno impazzire quelli che parlano di una commissione d'inchiesta, mi fanno diventare sì, pazzo. No, questo è folle. Questo caso ma ragione. Poi ti dico anche perché. Adesso ho scoperto folle. Una cosa incredibile ieri sera. Ieri sera tornavo a casa. No, anzi, prima sentiamo Renzi, perché pure lui ha parlato di una commissione d'indagine, i sindacati di valutazione, tutte cose totalmente inutili. Io vedo di buon occhio il fatto che il Parlamento possa, nei limiti naturalmente, nel rispetto del ruolo del Parlamento, aprire commissioni di indagine o sindacati di valutazione su ciò che è avvenuto nel sistema bancario italiano e europeo degli ultimi 10 anni. Ragazzi, vi rendete conto o no che il Presidente del Consiglio dice che bisogna fare una commissione di indagine, sindacato di valutazione su quello che è successo negli ultimi 10 anni? Ma vi dico che è una follia questa roba qui, cioè che il Parlamento si mette a fare una commissione di indagine sulle banche, tutte cose inutili che fanno perdere tempo, occupano il Parlamento, questo bisogna dirlo, siccome spesso i parlamentari vengono accusati di non fare nulla, magari occupano il Parlamento, uno c'ha, pur di non fare nulla, no? Cioè piuttosto che non fare nulla magari sì, fanno una commissione di indagine. Ma ieri sera tornavo a casa verso credo mezzanotte, no? Dopo aver fatto i tuoi soliti comodi con qualche donnina, solite cose mie, solite eccetera. Porcherie con qualche donnina, solite porcherie. Tornavo a casa, amore a pagamento, tornavi ma a casa. Ma no, ma non è vero, sto a pagamento. Chi so, ma no, ma guarda, io ti denuncio. Scusa, non ho capito, ti denuncio. Allora, che date il cornuto all'asino, andiamo avanti. Allora, e sento, non mi ricordo che giornale radio, forse della Rai, non mi ricordo. Radio 24, no, non credo. Allora, no, non mi ricordo perché sentivo qualcosa. Vabbè, comunque, non è importante. E ho scoperto che esiste ancora la commissione d'inchiesta su Aldo Moro. Ti certo. giuro, su l'abbiamo Aldo Moro, ieri, certo. 1978. Chiaro, esiste sì. la commissione d'inchiesta sì, Aldo Moro, su certo. Aldo Moro. Cioè, bisogna ancora accertare. E poi, mi dicono che bisogna fare la commissione d'inchiesta sulle banche e sui. Ma io divento pazzo, ma io gli sputo in faccia chi me lo dice. Bisogna sputarli in faccia. Un politico che dice che bisogna fare la commissione d'inchiesta, uno truffato, dovrebbe andare. Uno sputo in faccia. Dici una cosa seria almeno, non questa buffonata. Esiste ancora la commissione d'inchiesta su Aldo Moro, presieduta dal signor Fioroni, amico mio. Fioroni, senti, l'ho recuperato degli audio. Abbiamo recuperato degli audio del signor Fioroni. Fioroni. Il buon Fioroni. Basta. Credo sia una di quelle pagine che dobbiamo chiarire e dobbiamo fare chiarezza. Dobbiamo saper diradare le nebbie che hanno avvolto il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta. Dobbiamo dare le risposte a tante domande. Ma tu ti rendi conto o no? Sono 2015 è stato ucciso nel 1978. Esiste gente in Parlamento pagata da noi per indagare su Aldo Moro. Se vogliamo essere un paese serio, credibile, che vuole ridare all'Italia una serenità, quella pagina della storia va chiarita, perché è uno snodo vitale che separa il prima e il dopo, e non c'è un dopo se non si fa pace con il prima. Traffico veicolare. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. vi presenta La Zanzara. Buonasera dottor Cruciani, io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfilata. Poi diciamo la verità, caro Parenzo, lo avesse fatto Berlusconi, mettiti nei panni, mettiti in una situazione del genere, no? Cioè, governo Berlusconi, salva banche, banche sì, governo Berlusconi, banche più o meno in zone rosse, non solo, ma soprattutto in zone rosse, no? Almeno queste qua, Banca Etruria, eccetera, eccetera. Un ascoltatore prima mi ha scritto una cosa molto intelligente. Lo avesse fatto Berlusconi un decreto con i risparmiatori sull'astrico, con i risparmi evaporati, eccetera, eccetera. Lo avesse fatto Berlusconi, ci sarebbero i Panzer per strada, Merkel e Napolitano in piazza, femministe e animalisti e attrici porno sotto Palazzo Chigi e pensionati in assetto in tenuta da guerra. Questa è la realtà, però, cioè, se il signor Berlusconi avesse fatto... la battuta è efficace, ma non è che è vero, diciamo, ma è al è governo gli si può imputare qualunque perdere, però cosa. È così, se l'avesse fatto Berlusconi sì, ma adesso non entriamo nel dettaglio governo, nel non dettaglio governo. Però non è che no, ma se l'avesse fatto Berlusconi, tu pensa con i risparmiatori che ha torto o ragione in colpa nel governo di questa cosa, probabilmente ha torto perché il governo, l'abbiamo già detto ieri, ha fatto quello che doveva d'accordo, fare d'accordo, però altro, fosse poi... stato Berlusconi, ma sarebbe successo il pandemonio. Tu pensa sì, cosa avrebbe fatto l'opposizione? Affamatori, probabile. Di pensionati, di correntisti, piccoli risparmiatori, i poveracci, li avete portati alla rovina, vergogna, vergogna, probabile, vergogna. Probabile, ed è quello che sì. Dicono. Tra l'altro oggi il livello di, vuol dire, anche di, se vogliamo, di mancanza di opposizione nei confronti di Renzi è tale che non, anche i partiti di opposizione non è che facciano granché contro il governo, Allora, la moglie del pensionato, era pensionato, sì, di Civita Vecchia, che si è ucciso l'altro giorno, no? Si chiama Lidia Di Marcantonio, se non sbaglio, no? Sì. Che facciamo? Chiamiamo, che dici? Vediamo. Eh? Non so. Vediamo se risponde, proviamo. Pronto? Signora Lidia? Sì? Buonasera, qui Radio 24, il Sole 24 Ore, salve. Salve. La disturbiamo, mi scusi, Volevo sapere semplicemente qual era la sua sensazione nei confronti di queste cose che vuole fare il governo, se ha fiducia in quello che vuole fare il governo oppure non gliene frega niente dopo quello che è successo. A me sinceramente, arrivato a questo punto, possono fare quello che vogliono. Mio marito non me lo ridanno. No, certo. Quindi... Ma secondo lei c'è una responsabilità precisa da parte di qualcuno per quello che è successo a suo marito, per la decisione estrema che ha preso suo marito? La procura sta indagando, sì. Sicuramente loro sanno. Cioè, secondo lei l'istigazione al suicidio è una cosa seria? Non le so dire, non ho un'opinione da esprimere. Se la procura ha ritenuto necessario aprire un fascicolo, ci saranno, penso, chi è che vi ha elementi validi. Chi è che vi ha mentito sui titoli, sui rischi che correvate? Eravate tranquilli? Questa è la domanda che le voglio fare. Noi eravamo tranquilli, ci dicevano di stare tranquilli. Cioè quelli delle banche, naturalmente, la banca dell'Etruria? Naturalmente. Vi dicevano di stare tranquilli, non vi hanno mai spiegato bene i rischi che si correvano con questi investimenti? Ma assolutamente no, ma né a noi e neanche a tutte queste altre persone che io adesso sto vedendo in televisione. Eravamo tutti all'oscuro, immagino, come noi. Senta, ma lei, scusi se le faccio questa domanda, che non riguarda ovviamente la questione giudiziaria e quello che si è aperto, ma lei non ha mai avuto il presentimento di nulla prima che accadesse questa cosa? Di che cosa? No, che suo marito era in una condizione psicologica... Assolutamente no. Assolutamente. No. Le pare che si immaginava una cosa del genere? No. No. Non ha mai avuto nessun tipo di pensiero, no? No, ma assolutamente. No. Senta, dovevamo andare a ballare alle 7, immagini lei. Dovevate andare a ballare? Sì. Cioè poco dopo quello che è successo, diciamo. Sì. Senta, se avesse di fronte il Presidente del Consiglio, cosa gli direbbe? Non glielo posso dire. Perché? No. Troppo brutto? Troppo brutto. Per cui lei dà qualche responsabilità per il suicidio di suo marito al Presidente del Consiglio? Cioè al governo? Non glielo posso dire. Immagini. La ringrazio. Buona serata, grazie. Buona serata, arrivederci. David, non hai detto niente, che è successo? No, era interessante. E poi vabbè, poi ha chiuso il telefono. No, volevo anche intervenire, ma poi lo siete questa voce comunque. Vabbè, è morto il marito. Paradossalmente certo, molto che controllata. Secondo me deve pensare delle cose dentro di sé del governo tremende, terribili. Si è capito, no? La moglie di quello che si è ammazzato dà la responsabilità diretta al governo. Mi sembra chiaro, no? Da quello che ha detto. Ecco, non c'è la parola esplicita, no? Ma che deve pensare? Perché sta gente qua. Lo so, ragazzi, però questi pensano una cosa del genere. Evidentemente. La verità, governo o non governo? Sì, ma l'hai sentita? Ma certo, l'ho sentita. Allora. Ma è la disperazione della signora Lidia, come di tanti altri. Lei poi gli è morto il marito. Ma di chi rimane da solo? Cioè chi aveva il conto in una di queste banche andava là e non aveva nessuno che gli poteva dare una risposta. Ma però perché nessuno? Se la prendono col governo? Tu dici perché è facile prendersela col governo piuttosto che... se la prende col governo dice ma come a qualcuno però questi soldi... Perché formalmente la parola fine ai loro risparmi l'ha messa il governo, cioè la firma sotto l'ha messa il governo, poi magari sarebbe successo lo stesso. Beh, però sì, la firma se ci fosse già quella roba dell'Europa che dal 2015 entreremo nel merito di quella roba. Fammi sentire Marco da Lucca, dai, Marco da Lucca, Marco. Ragazzi, noi ci siamo sentiti tante volte per parlare di puttane, di troie, di cazzate, sì, per offendere quel demente che c'hai accanto, ma stasera volevo dire una cosa seria. Lei è Marco da Lucca, no? Sì, dai. Marco, allora, io sono uno che ha perso dei soldi in Banca Etruria. Non è che le persi a puttare, dopo come dicevi quello prima, che no? Mi ha detto, mi verrebbe da dire, non lo dirò, che sono dispiaciuto, visto che mi hanno del demente. Ma se mi fate parlare, io non sono dispiaciuto, perché ho perso poco, ho perso 6.000 euro. Beh, sì. Bravo coglione, se non sei dispiaciuto... Sei proprio un pirla, però se 6.000 euro per te sono niente, sei un pirla. Dai, Marco, dimmi. Allora, ritardato, perché questo... Dai, Marco, dimmi. È un cretino. Io non sono dispiaciuto. Io non sono dispiaciuto perché io sono un investitore. Io non sono una persona truffata da Banca Etruria. Io sono uno di quelli che non va ritardato. Io sono uno che è interessante. Ha perso 6.000 euro e ti dice lascia perdere gli insulti che ti ha fatto. Ho firmato una cedola che non sapevo cos'era. Vabbè, sono Marco, un coglione, perché, è giusto che cioè, perda tu dici quei sono soldi. Un coglione io? Questo dici, ma chi te l'ha detto che io non sapevo cos'era? Ma perché non ascolti? Io sono uno di quelli che lo fa di lavoro, quindi sapevo benissimo che rischio mi stavo assumendo, quindi non sono uno di quelli che deve essere risarcito. Ma io vi chiamo perché ho conoscenza di di decine di persone che invece a differenza mia non lo fanno di lavoro, quelli che sono gli investitori e non erano informati. Aspetta, devo chiudere, Marco, però ti richiamo subito dopo, dopo il giornale radio. Fermi qui, fermi tutti. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Sono in linea con i due simpatici stronzi, lì Cruciani e quell'altro lì, come cavolo si chiama, Parenzala. Tu puoi fare quel che ti pare, Cruciani, ma io spero e mi auguro, e vivamente mi auguro, che tu riesca a vergognarti dopo esserti riascoltato più volte dopo aver detto quelle cose. Siete criminali! Allora, prima di tornare a Marco da Lucca, a Parenzo, che ci stava raccontando di aver perso 6.000 euro, ma... Sì, ma contento. No, contento magari no. Perché consapevole del rischio che stava correndo. Voleva aggiungere delle cose. Ti faccio sentire la voce di una signorina che si chiama Alice Anselmo. No, questa signorina, Alice Anselmo, è una signorina nessuno, un'avvocatessa di Palermo, la quale è anche consigliere regionale in Sicilia. E tu sai cosa vuol dire consigliere regionale in Sicilia. E sono quelli per cui Giampiero Mughini nei giorni scorsi ha detto che odia la Sicilia. Cioè se uno guarda l'Assemblea regionale siciliana con tutti gli sprechi, le schifezze, i privilegi, eccetera, uno odia la Sicilia. Così ha detto Giampiero Mughini e non posso dargli torto da questo punto di vista. No, se uno si limitasse a guardare quella fotografia della Sicilia, no, l'Assemblea regionale siciliana con tutto quello che comporta, sì, gli sprechi, le vergogne, le pensioni, sì, anche i cambi di casacca, perché questa signorina che si chiama, ripeto, Alice Anselmo, che non è tanto una signorina perché anche, come dire, no, è una signora con la sua età, Alice Anselmo ha cambiato 6 o 7, non si capisce bene che poi i calcoli è complicato farli, 6 o 7 gruppi parlamentari. Lei dice restando sempre fedele al presidente Crocetta, al presidente, come se la cosa fosse, sapete, fosse una sorta di ancora di salvataggio. Cioè, ho cambiato sì 6 o 7 gruppi parlamentari, però questa mattina alla trasmissione Aria che tira, condotta dalla signora Mirta Merlino, la signora Anselmo, cosa ha detto? No, per questo, per evitare che tu lo aggiunga, no, questo, ecco, lo dico io, lo dico io. Ti ho mandato una mail, la tua mail riservata, con notizie. Che cosa? Ah, a me? Sì, ho mandato una mail all'ufficio riservato. Allora, signore Anselmo, Anselmo dice: sì, però io ho cambiato solo 4 partiti. Cioè, dice: sì, è solo, vero, solo 4 partiti. Capito, tu capisci, capito, no? Che ti ho mandato una mail riservata. Regionale siciliana, amici miei. In realtà, diciamo, i gruppi sono soltanto tra virgolette 4, ma io non ho mai mollato il presidente Crocetta. Io sono sempre stata, anzi forse i miei cambi sono stati dovuti proprio al fatto da trovare, diciamo, quello spazio che mi consentisse un appoggio leale. Ha cambiato solo 4, solo 4, capito? Come se fosse una cosa normale, solo 4. Ufficio investigativo alla Zanzara, mi è data mail dottor Cruciani. Sì, non lo so, ho letto, non ti preoccupare. Ufficio investigativo alla Zanzara, mandato dossier riservato. Ma hai visto la foto di Salvini? È uscita una foto sì, di Salvini vestito da Re Maggio. Pensavo da Re Maggio fosse uno scherzo, sì, di qualche suo detrattore. Sì, anche io un fotomontaggio, sì, un fotomontaggio. No, pare sia vero, sì, la comunque questo gli rende onore perché lo ha fatto per il figlio. Sì, la, tu per sei la fissata figlia con questa cosa. Ma qua, mi piace, questo è l'aspetto umano di un uomo. Allora, Salvini ha la benedizione. Tu hai dato in 2 giorni, hai dato ragione, in 3 giorni hai dato ragione. Prima alla Santanchè sul vestito e poi a Salvini su questa storia del Re Maggio. Ho detto che potresti farti qualche domanda. Ho detto che era l'unica che poteva indossare quel vestito, poi ho detto spero che mia moglie e la mia compagna non se lo indossi, non lo indossi mai, ma insomma, però lei va bene. Va bene, Vincenzo da Milano, vai, 800 24 00 24. Ma il genio di Luca l'hai liquidato, Vincenzo, giustamente. No, avevamo Luca, no, scusa Marco, il genio di Luca. No, vai Marco, allora, dimmi. Eccomi qua. Allora Luca, hai perso 6.000 euro, però eri consapevole dei rischi perché sei della materia, sei della... Allora, il genio da Luca cerca di spiegare a quell'altro genio lì di Padova, sì, che io non sono affatto contento, però fa parte del mio lavoro, questo è il rischio del mio mestiere, io faccio questo, quindi investo. Che fai? Investi, sì. Sì, sì, se sono correttamente informato so benissimo che perdo. Certo. Che posso perdere. Qual è la cosa divertente? Che divertente non è perché è una tragedia, è un dramma. Primo, io, essendo io uno di quelli che ha comprato questa immondizia, so per certo che questa banca truffava in modo conscio i piccoli investitori, quindi per capirsi i pensionati, non gli spericolati broker. Cioè, ma in che modo li truffava però? Perché tu stai parlando di truffa, modi, che è un'altra cosa. Modi, la truffa, tre modi. Primo, il ricatto, vuoi un mutuo? Se non compri le azioni di questa banca io non ti ero quel mutuo, questo è un ricatto. Secondo, ti garantisco che il capitale è garantito, ma come, non ti fidi di me? Ci conosciamo da 40 anni, vieni in questa filiale da quando eri un ragazzino, fidati, il capitale è garantito. Terzo modo, con la truffa vera e propria, cioè facendo firmare carte a persone che non sapevano neanche che cosa stavano firmando. Questa è una cosa che voi vedrete, verrà fuori, ma io non ho chiamato per questo. Chi hai chiamato? Per insultare Parenzo? No, vabbè, lui lo insulto sempre. Io ho chiamato per dire una cosa molto seria. Non è vero che il governo ha fatto tutto quello che poteva fare, e finché lo dice un lecchino come Parenzo che vive per leccare il culo a Renzi e a tutti quelle altre maracate. No, in realtà a Renzi non lecca troppo il culo, devo dirti la verità. Però. Sì, lo so, perché lui è nella frangia perdente di Gargamella dentro il PD. Ma ma avendo tu il cervello pieno di merda, chiedo scusa per il linguaggio. Allora, io ho chiamato per dire questo, non è vero che il governo ha fatto tutto quello che poteva. E che non doveva fare invece? Marco da Luca. Te lo dico subito. Le teorie di Marco da Luca. Non è una teoria. No, no, prego, Marco da Luca. È lo zimbello della città, ma andiamo avanti, dai. Dai, Marco, dai, forza. Il nostro governo che doveva fare, dai. il nostro bello governo è l'unico in Europa che non ha mai chiesto un euro al fondo salvabanche europeo. La Germania ha preso 170 miliardi. Su questo miliardi, ha ragione l'idiota. Ha preso 170 miliardi per salvare le sue banche. L'idiota erano tutte rovinate. Giusta. Prima le ha salvate, appena le banche tedesche erano salvate si sono inventati. Questo è vero, l'idiota ha ragione. Da gennaio parte il bail-in, perché ora con i vostri soldi ho salvato banche dove c'erano ad esempio dentro gli investitori istituzionali. Deutsche Bank per tutti. Vabbè, Marco. Ciao, grazie. No, vabbè, ho capito. Adesso non è che puoi fare la produzione. Sì, va bene, hai detto le tre cose. Perché un orologio rotto due volte al giorno dice cose giuste. Segnalo Vincenzo esatto. Da Milano, vai Vincenzo. Ciao. Dimmi. Senti, volevo dirti questo. Posso che a me diventi non me ne frega niente, perché grazie a Dio io ora sono a Milano, però le mie tasse adesso le pago in Olanda e sono felicissimo di non pagare più tasse allo Stato italiano. Quindi non ho intenzione di difendere. E posso che apprezzo molto la trasmissione, la seguo anche in streaming quando sono giù. Sì, però scusami Vincenzo, okay. ti sento un po' male, dovresti togliere il viva voce o qualche diavoleria che hai. Vabbè, alza la voce allora, dai, forza. Ok, senti, ti volevo dire che francamente l'intervista alla signora, che ha tutta la mia, come dire, stima e supporto, però francamente mettere in bocca ad una persona, perché tu questo hai fatto stasera, mettere in bocca ad una persona in quella situazione che la colpa è del governo da Renzi che fa schifo e tutto, la trovo veramente una scusami poi Vincenzo, posso che il tono della trasmissione è quello lì. No, ma scusa, no Vincenzo, a parte che il tono di questa trasmissione è ogni tanto scanzonato, ogni tanto addirittura peggio di scanzonato, e ogni tanto però ci permettiamo, perché non è che siamo due rimbambiti, abbiamo le nostre idee eccetera, ci permettiamo di affrontare qualche argomento diciamo di strettissima attualità, più serio eccetera, francamente penso che ce lo possiamo permettere, poi ognuno dà il suo giudizio, però Vincenzo ti assicuro, ma lascia perdere il giornalista. Non puoi mettere in bocca ad una povera signora che ha subito quel dramma. Io non ho messo il punto è che veramente in questo caso, ti assicuro che non ho messo in bocca niente. Ti assicuro. Io ho detto, ho chiesto semplicemente. Ma guarda che magari ma che cosa? Io a parte che faccio questo mestiere, quello di fare le domande. E dunque, se chiedo che cosa pensi del governo Renzi, la signora ha detto non te lo posso dire. Pensi cose brutte? Sì, brutte. Più di questo, sinceramente. Veramente sì. Che cosa devo fare? Non ho capito. Che cosa devo fare? Le domande fa adesso che il marito è morto? Si vuole risposare? Che cosa devo chiedere? Non ho capito. No, non voglio fare il tuo mestiere, però sto dicendo che nel tuo mestiere certe domande guidate per far dire che il governo la colpa della morte ma io non ho detto questo, io ho detto semplicemente che dai qualche responsabilità a Renzi, al governo, per quello che è successo. Ma secondo te una domanda da giornalista a fare ad una persona se lo chiedono in molti veramente è la domanda che stanno facendo tutti su tutti i giornali. Ma la domanda la puoi fare ad un c'è differenza tra quelli truffati che non hanno un morto in casa e quelli che hanno un morto in casa. Sì, francamente l'emotività. Ma l'emotività, ma noi facciamo questo mestiere anche per tirare fuori l'emotività dalle persone, anche questo. Guarda, l'intervista è durata, io non sono un giornalista serio, forse nemmeno un giornalista, ma il punto mi interessano le distinzioni tra giornalista, eccetera, eccetera, non me ne può fregare di meno. Formalmente faccio il giornalista. L'intervista è durata 2 minuti e 30. Mi sembra un tempo sufficiente per non martellare, per non sfrangiare le balle sia agli ascoltatori che soprattutto alla signora, francamente essere accusato di aver messo in bocca alla persona, alla vedova alla vedova di Civitavecchia, che la colpa è del governo Renzi, francamente no. Cioè, lei lo pensa, praticamente l'ha detto, ma certamente non gliel'ho messo in bocca io. Le ho fatto questa domanda, punto e basta. Fermi tutti. Voglio più zanzara e meno pubblicità. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Sì, mi insulti lei, Cruciani, mi piace di più. Da Parenzo un po' meno, da Cruciani mi potrebbe piacere, non detto che mi piace, mi potrebbe piacere. Don't you worry. worry, I'm all right, Jack. We've never had it so good. Tu non hai idea, caro David, quanti messaggi, telefonate, eccetera, mi sono arrivati sulla questione del cassonetto, sul giallo del cassonetto. Perché la più geniale, lo sai qual è? È quella in cui, Parenzo, ci sei o no? Certo che ci sono. Che ne so, non parli, cazzo. Ho detto il cassonetto killer, ma secondo me sei audio leso però. No, non si sentiva, forse c'era l'audio abbassato, cioè qualcuno ha abbassato l'audio. No, nessuno ha abbassato niente, complotto. C'è nessuno dietro al vetro, figurati per ora. Allora, nessuno. Allora, qualcuno ha detto, ma perché non facciamo i cassonetti killer? Cioè, perché non inventiamo i cassonetti con delle trappole apposta per topi, con del rame dentro, così qualcuno va là, ma in realtà diventa una trappola e zac, tac, rimane imprigionato dentro. No, però è geniale. C'è uno che pensa, il Rom vuole andare a rubare il rame. Bene, glielo fai trovare dentro un cassonetto, un finto cassonetto, che in realtà è un cassonetto killer. Tu tenti di alzare questo cassonetto, cassone, container, quello che è. Mi fa venire i brividi. E in realtà dentro è una specie di trappola per topi, rimane imprigionato. Chi l'ha pensato mi fa venire i brividi, veramente. Genio. I brividi. Bruciani, se avevi trovato io quel pezzo di merda nel bidone dei rifiuti, invece di recuperarlo l'avrei buttato nel piombo fuso, quella merda. Digli a quell'avvocato lì del cassonetto che sei una carogna, sei una carogna. L'avvocato di quello del cassonetto è un genio, d'accordo? Quindi non me lo dovete toccare perché quello è un genio. Disseminiamo la città di cassonetti difettosi. Il cassonetto ha fatto giustizia da sé. Altro che ladri, ladri, ladri. Tutti al muro. No, scusate, ma qui vado veramente fuori di testa. Da un lato c'è un cassonetto rotto e dall'altro c'è un ladro rom morto. Ma io sto mille volte dalla parte del cassonetto rotto. Mi fa molta più pena il proprietario dell'impresa che adesso dovrà vedersela con giudici, avvocati e cazzi vari, che sti cazzo di parenti di sto cazzo di zingaro che è morto perché andava a rubare il rame dal cassonetto. Ma sempre dalla parte del cassonetto rotto e affanculo lo zingaro morto. Allora, vogliamo ricordare, Parenzo? La gente è incredibile. Comunque. La gente, il popolo, il popolo. No, non dire così, il popolo non il è bobolo, la gente. Il popolo, ma è guarda che, guarda, così, che ti assicuro. La gente non è così, un ascoltatore che dice 100.000 volte, 100.000 volte col cassonetto e non con lo zingaro morto. Ma no, ma è idiota anche solo è quello che pensa il 90% delle persone. Ma la stupidaggine di chi dice sto non considerare questa cosa. Ma no, ma come si fa a dire sto col cassonetto? Ma sì, ma è per dire non ho nessuna pietà, non ho nessuna pietà nei confronti. Ma come si fa a dire sto con una cosa rotta, sto con un cassonetto? A parte che forse l'ha rotto, forse l'ha rotto. Vogliamo ricapitolare quello che Mamma è successo, sennò sembriamo pazzi. Fai l'ispettore Clouseau sul cassonetto. No, 2 anni fa, avanti, ma è una storia bellissima, un giallo meraviglioso. Forza, Derrick. 2 anni fa, un gruppo di due o tre persone di origine sinti, rom, quello che è, cercavano di rubare all'interno di un'isola ecologica, all'interno di un cassonetto probabilmente pieno di rame. O di altre cose che comunque valgono. Un cassonetto valgono. No, sì, valgono, se rivendute valgono qualche migliaio di euro. Frugare in un cassonetto. Un signore rom è entrato dentro, poi è rimasto impigliato, quasi decapitato, dunque è morto da questo stesso cassonetto. Gli altri se la sono data a gambe, quelli che erano con lui, sono scappati via. Vabbè, c'è da un... Qualche tempo dopo, il fratello della vittima, attraverso un avvocato, decide di fare causa. Prima al comune, che dice, no, guarda, noi i soldi non te li diamo. Poi all'azienda, e chiede 300.000 euro, sostenendo, poi ci sono perizie, eccetera, eccetera, che questo cassonetto è difettoso e dunque avrebbe provocato il decesso, la morte del rom ladro, amici miei. Quello che penso io lo sapete già. Quello che pensate voi l'abbiamo sentito. Ma se volete, continuate ad intervenire pure su questo. Allora, Giovanni d'Arezzo, vai. Ospiti in arrivo intanto qui, eh? Vai, Giovanni d'Arezzo, sì, vai. Buonasera, presente. Sì. Allora, possiamo anche dirlo, no? Chi ci sarà? No, 19... no, non lo diciamo. Ospiti in arrivo, qua, dietro lo schermo. Giovanni dietro... d'Arezzo, dietro il vetro, in sì. In regia, lo rivedo. Schermo, dietro lo schermo. Schermo. Dietro la regia vuota. Fra poco torniamo in televisione, Parenzo, fra so, poco torniamo in televisione. Rimane no, un mistero, lo so. Giovanni d'Arezzo, dai, Giovanni. Tenente Colombo. Sempre due ospiti, cioè un ospite in verità forse. Vai, Giovanni. Volevo far vivere la realtà di Banca Etruria da un punto di vista un po' diverso. Io faccio il consulente per una banca da 25 anni qui a Arezzo. Sono anni che il problema Banca Etruria, cioè tu sei un consulente banche, di un consulente bancario, che vuol dire però? Cioè, ma che vuol dire? Che noi si fa le analisi. Sì, ma per chi lavori? Da solo? Sei un libero professionista? No, oppure no, per un'altra banca. Perché banca? No, diciamolo, no. Banca Generali. Per le Generali, ok. Allora? Noi, come miei colleghi, come altre persone, sì, facciamo le analisi di dossier titoli. Sì, sì. E diciamo alle persone: guardi, questo titolo rischia, questo è un titolo da vendere perché è legato a un probabile, cioè, fallimento. Cioè, mi stai dicendo, Giovanni, che tu, quando hai di fronte un cliente di una banca, parli in maniera molto chiara, molto esplicita, non è che sì, cerchi di turlupinarlo. Vabbè, questo qua chiaramente questo ce lo dice a noi, ovviamente. Noi non possiamo verificare, non lo possiamo sapere, però ti credo sulla parola. Non centro su di me. Dico che la stessa cosa che dico io la dicevano le persone dipendenti di Banca Etruria che sono uscite e sono venute a lavorare con sì, noi. Che cosa dicevano? Che erano costrette a vendere certi prodotti e che Banca Etruria rischiava di fallire. Sì. Questa realtà veniva, cioè, costretta, dai costretta a vendere certi prodotti dai loro capi, diciamo, dalle direttive dei vertici, sì, dai vertici di Banca Etruria, perché in questo modo dovevano raggranellare dei soldi, altrimenti fallivano, cosa che comunque, bravo, hanno praticamente fatto lo stesso. Seduto. Esatto. Allora? I dipendenti no, i commercialisti facevano la stessa cosa, perché la realtà aretina è piccola e come cioè, che vuol dire facevano la stessa cosa, avvertivano i propri clienti che c'era il rischio di fallimento da parte della banca, sì, per cui le aziende di stare attente a non avere troppi depositi sopra i 100.000 e i privati di stare attenti a non avere certe tipologie. D'accordo, questa è la situazione, quello che è venuto fuori più o meno nei giorni scorsi, però la tua testimonianza ad Arezzo è abbastanza importante. Allora, che bisogna fare secondo te? Cioè... Ecco, la nazione ugualmente, ma dicevo per dire, nel senso, il quotidiano parla sempre. Il discorso, visto da un certo punto di vista, è enorme, potrebbe stare tutta la sera a parlare. Vabbè. Di certo c'è una cultura finanziaria che va a cambiare. Sì, va bene, però Giovanni, d'accordo, questo non c'è dubbio. Lehman Brothers è fallita. Sì, ma che bisogna fare adesso? È giusto rimborsare questi qua o no? Sulla maggioranza delle persone, no. Perché no, dovevano essere, cioè, quelli che hanno titoli a rischio, diciamo. Quelli allora, che hanno... Banca Etruria 2 anni fa ha fatto un'iniziativa, ha venduto loro i lingotti d'oro che loro fanno intermediazione. Adesso quelle persone lì hanno tutte dimezzato il loro valore. Allora dovrebbero fare causa lo stesso. Beh, quello è un po' diverso, però è un po' diverso. Se sei un piccolo risparmiatore che va lì, ti fidi del coso, no? Ti fidi del tizio che ti vende le cose, che ti dice questi sono investimenti sicuri, eccetera, eccetera. Dopodiché, da un giorno all'altro questi soldi spariscono. È un po' diverso rispetto al fatto che tu compri dell'oro che adesso vale meno. Che deve essere valutato. Una truffa che da parte di alcune aziende può essere anche rivista. Vabbè. Vabbè, io ti lascio questo qua da chiamare l'ospite, la metto. Va bene. Andrea da Rieti, dai. Andrea, dai. Ciao, Andrea. Lucia. Ciao, dimmi, caro, dimmi. Ciao. Senti, io volevo parlare a merito della questione di quello di Bergamo, che c'ha la figlia che fa la mignotta. Sì, Mario, senti, secondo me va coglionato. Non è vero. Perché io so 15 anni che vado a mignotte, Cruciato. Sì, vai a prostitute, a mignotte, sì, quello che vuoi. Sì, sì. Sulle case però, sugli appartamenti. Sì. E io so quello che avevo chiamato, che ci ha avuto quell'esperienza con trans, non so se te ricordi. No, non me lo ricordo, adesso non è che posso ricordarmi di tutti quelli che chiamano dicendo di aver avuto un'esperienza con un trans, amico mio. Tante persone. Fatto il sesso orale, dai, che mi ha fatto il sesso orale. Vabbè, d'accordo, da paura, poi? Vabbè. Praticamente non funziona così come ha detto quello là. Ma no, quello non lo possiamo sapere se è vero o no. Io parto dal presupposto, scusami, Andrea. Parto dal presupposto che tutto quello che ci raccontano gli ascoltatori più o meno è vero o verosimile, perché altrimenti dovrei chiudere bottega, cioè questo mi pare evidente, sì, no? Sì, ma appunto e basta. Cioè, quello sostiene di avere in casa una figlia che fa la prostituta. Abbiamo ovviamente tentato di ricontattarlo, ma il telefono è sempre spento. Ora può darsi pure che perché Lo sai perché, Cruciate, dico così? Perché io sono 15 anni che vado in appartamenti a prostitute. E tu vuoi sapere come funziona? Sei, come dice Parenzo, un miserabile, ecco, un miserabile. Parenzo è andato al culo, non deve romper cazzo. Va bene, d'accordo. Io va bene. Parlo con te, Crucia, lascialo perdere, Parenzo. Va bene, allora? È praticamente quando tu chiami le zoccole e vai a vedere su nelle internet... Nelle case, sì, nelle case. Relazioni sociali Roma, per esempio. Sì. E chiami e questa qua ti dice ti dà la via e ti dà il numero civico. Vabbè, lei è uno sporcaccione comunque, dai. Vabbè, Andrea, lo sappiamo. Dunque, perché perché quella storia è inverosimile, secondo te? Spiegami. È inverosimile perché non è possibile che tu suoni al campanello. Perché quando arrivi al numero civico, tu la devi richiamare. È un esperto, è un frequentatore, è un esperto. Va bene, certo, d'accordo, ma noi non, non possiamo sapere quello che succede. Però, Andrea, lei ha famiglia? Lei. Io so tu hai una moglie? Ma lei ha famiglia? Hai moglie e figli? Sì, io ho una moglie e ho due figli. Ma sua moglie, ascolta la Zanzara, spero, per lei. Questa sera la aspetta a casa con bastone nodoso. Già io ho detto a Parenzo, no, la radio non ce l'abbiamo a casa, Cruciale. Sì, no, ma io voglio capire una cosa, scusami, Andrea, non è la radio a casa, eccetera. Tu hai... Io perché... tu dici di non credere a Mario da Bergamo, no? Che è stata una delle storie più belle uscite in questi giorni qui alla Zanzara. Perché io invece... sì, è così. Perché invece io dovrei credere a te che dici di avere una moglie da 15 anni, invece vai a prostitute? Perché dovrei crederti? Perché a me mi piace andare a prostitute. Ma ho capito, perché dovrei chiederti? Perché dovrei crederti? Però aspetta un attimo, torniamo più tardi, ti richiamo. Guarda che incredibile, la gente che mi scrive: chiamare la signora del marito suicida e sciacallaggio, io lo trovo veramente una cosa pazzesca. C'è anche Parenzo che è contrario al come dire al mio cinismo. Sì, cioè, al mio cinismo. No, ma questa volta no. Mi sembra una cosa giornalistica. Ma l'hanno intervistata tutti. Ma tutti, cioè, erano tutti là con le telecamere a cercare i numeri di telefono, di case, eccetera. Dubbio. Ma di che parliamo, ragazzi? No, no, no, dai, quando è giusto, è giusto. Protagonisti delle vicende di questi giorni, la moglie di uno che si è suicidato. Ovviamente con tutto il rispetto, non è che gli dico: signora, allora come sta? No, come se la sta passando? Ci mancherebbe. Allora avete perso i soldi? No, anzi, forse meglio anche di altre interviste che invece alle volte alcuni giornalisti dicono: allora come si sente? Dico: ma cazzo, perché ecco la cosa che io non sopporto, quando tu vai a intervistare i parenti di persone che hanno subito un lutto, sì alcuni vanno lì e dicono: allora signora come stai? Come vuoi che stai? È morto il marito, non sto quella bene, è l'unica domanda che in genere non devi dire allora signora, sì, sta, poi uno come lo sta? Chiede sempre, lo chiede sempre per rompere il ghiaccio, no? Capito, ma spesso è adesso per esempio dovremmo chiedere: c'è qualcuno accanto a te? C'è l'ospite. Ma scusa, dobbiamo chiedere. Non senti uno stormir di corvi? No, dobbiamo chiedere come sta. Dobbiamo chiedere come sta. No, non credo. No. Puoi chiedere. Ma sei sempre chic to chic o finalmente è stato attivato un microfono? No, chic to chic no, anche perché c'è il marito dietro le sbarre. Sei pazzino. No, sei stato là. Dietro le sbarre, sei pazzo. Dietro, perché considero la regia una sbarra. Dietro al vetro della regia c'è il marito che ha la tosse e ti saluta tanto, ma dice che è grande ascoltatore della Zanzara. E non ha voglia di intervenire. Però no, anche dovrebbe per ragioni, venire, dovrebbe anche venire per ragioni cliniche di tosse. Però dovrebbe intervenire sentire la tosse del corso della tra qualche giorno. C'è invece a mio fianco Francesca presente. Immacolata Ciauchi. Bene. Buonasera. Il cosiddetto corvo, però. Sì, ma ormai lo sappiamo. Allora, no, però io vorrei dire al signor marito che è dietro il vetro che magari quando fra qualche giorno, quando gli sarà passata la tosse, cioè di venire da solo con te in studio. Anche la rabbiatura. Perché con me? Arrabbiatura con me, perché deve essere arrabbiato con me? No, con te no. Io non ho fatto niente. No, con te no. Fino a prova contraria se la dovrebbe prendere con i signori che hanno incriminato la moglie, con Monsignor Baldà che parla male della moglie, di sua moglie. Con me, niente. Per Baldà adesso, dice anche delle porcherie, è una mica da ridere. Il signor Baldà dice: allora, io però voglio chiedere subito alla signora Ciauchi una cosa. Un anno fa lei andava alla Leopolda di Renzi, scrisse anche un tweet che io ho ricordato ieri sera. Ma a un anno di distanza, lei è ancora renziana o no? Sì, sono ancora renziana. Hai fatto il favore a Renzi? Sono renziana. Ma perché? Non ho capito perché se la Ciauchi dice di essere ancora renziana e gli fa un danno. Mica è un mostro la signora Ciauchi. Ma a me lo dici, io la conosco, per cui figurati. Ne ha fatto un mostro. Tra l'altro circolano delle foto in cui è veramente tipo in grande spolvero. No, poi altre foto in cui sembra... Cioè no, ma sono delle foto un po' taroccate, signora Ciauchi. Cioè lei è bella oppure no? Questo si sente una bella donna oppure... Scusi se le faccio questa domanda. Vedo che c'è il marito. No, perché vedo delle foto. Io non l'ho mai vista in vita mia, dunque non la posso sapere. vedo delle foto, soprattutto c'è su Dago Spia, il marito dietro il vetro, e su altri siti in cui ci sono delle foto meravigliose di una donna che bellissima. Il marito è anche piuttosto corpulento, sì, lo so, alto, lo so, e molto molto robusto, con una simpatica barba. Vabbè. Perché fai queste domande del cazzo, perché, del cavolo, perché no, sei ma a Milano, perché, vado, perché se fossi qua è con vero, davanti no. il marito, non so se questa domanda l'avresti fatta. Però Luciani, ma sì. cosa importa, siamo ancora a chiedere alle donne se sono belle o meno, ma chiedimi tutto. Se sono una persona intelligente, importa, intelligente, se sono belle. Intelligente sicuro. Furba moltissimo, secondo me, molto furba. scaltra attenzione. Beh, sì, allora adesso manca manipolatrice. No, non questo io non la posso sapere. Questo non la posso sapere, non la posso dire. Furba, molto intelligente, come dire, scaltra, abile, non c'è dubbio. Non, su questo non ci, piove, questo beh, non ci piove. Questo. Tutto, meglio questo che bello. Se, meglio se abile, avessi potuto chiedere a Dio se mi faceva nascere bello o intelligente, avrei scelto intelligente. Ma lei si sente bella, però? Si sente una ma bella l'importante donna. È che quando mi guardo allo specchio mi piaccio. Poi bello o meno è un giudizio soggettivo. Sicuramente quando mi guardo allo specchio dico ma non so, alla fine poi c'è di peggio, non c'è dubbio. Ma allora io voglio dire una cosa. Quindi, Francesca Ciaucchi è ancora renziana. Renziana. Oggi voterebbe di nuovo Renzi. Io voterei Renzi, ma c'è l'unica speranza per questo paese è Renzi? In questo momento, eh? Al momento sì. Al momento sicuramente sì. Anche perché comunque Renzi, partito dalla Leopolda, sì. lui dice, stasera dice, andare alla Leopolda e tornare a casa. Renzi, partito dalla Leopolda, molte sì. delle idee della Leopolda l'ha realizzate. Molte l'ha realizzate. Molto la realizzata. È più renziana dei renziani, Parenzo. Sì. Cioè, è più renziana. Ma ha rapporti con i renziani ancora? Non hai mai avuto i rapporti? Cioè, riconosce? Allora, io questo concetto lo voglio ribadire. Sì. I miei rapporti personali con le persone non sono oggetto di contestazione pubblica. Io non vengo in una radio. Ormai è diventata. Però lei ormai... Con la mia agenda telefonica. Ma lei lo sa ormai benissimo. Anche quella è diventata un mito perché c'ho. Ecco, vediamo la sua agenda telefonica. Allora, mi dia il suo telefonino. Lei ha il numero anche, secondo me, di. Lei, secondo me, ha il numero anche tipo di Trump. Ce l'hai il numero di Trump? Di Donald Trump, l'ho conosciuto però. Beh, lo vedi che dice una persona. Ma non è possibile, no, scusa, ma non è possibile. L'ho conosciuto a New York. L'ho conosciuto a New York esattamente l'anno scorso. Ma uno stronzo qualunque l'ha conosciuto lei, scusi. Un metalmeccanico. Io sono piena. A parte, sono piena, sono a parte i due sottoscritti. Posso dire? Ecco, no, il marito che adesso a questo punto è circondato da stronzi. No, ha fatto il segno quando io ho chiesto, ma uno stronzo qualunque, ha fatto il segno di me, cioè indicava me, capito? Simpatico marito. Adesso me lo incarto io al marito. Trump lo conosce, Obama lo conosce? Obama lo conosce. C'ha i numeri di gente vicino a Obama, cellulare. Sì. Paradossalmente ho conosciuto la moglie perché ma lo vedi? Conoscevo. Attenzione, però per una ragione divertentissima. Ho conosciuto la moglie perché Alice Waters, che è la persona che cura l'orto di Michelle Obama, ecco. in America, è una persona che io conosco, con la quale c'ho rapporti. È stata lei che addirittura una volta in un incontro lanciò un'idea divertentissima, quella di fare per ogni parrocchia un orto. Non un distributore di preservativi come dico io. No, io sostengo un distributore di preservativi. Un orto. E quindi, insomma, venne fuori questa idea che lei raccontò a Michelle. E quando Obama venne per la prima volta in Vaticano, gli ha detto a Bertone: Bertone, gli è venuto il coccolone. No, Bertone era già sul lattico, non c'era più. Era... E gli dici: sostituisci lattico con un orto, insomma, al cardinale Bertone, che gli viene il coccolone. La Alice Waters suggerisce a Michelle di suggerire ad Obama, quando verrà in visita al Santo Padre, di portare dei semi dell'orto della Casa Bianca. Infatti, quando Obama c'è un'idea tua praticamente in Vaticano, no, non è mia, è di Alice Waters. Quando Obama venne in Vaticano, portò dei semi Parenzo, che no. poi sono c'è stati Putin. Adesso facciamo un altro nome. Putin. Putin lo conosci? No, ma ho buoni rapporti con l'ambasciatore. Ma lo vedi che non è che sto parlando. Lo conosci un operaio della metalmeccanico tipo Emiliano? No, questo è il punto. No, tipo Emiliano no. Per cui è normale, ma questo per dire perché operai metalmeccanici ne conosco tanti. Questo per dire che non si deve stupire, e infatti non si stupisce la signora Ciaucchi che si domandi della sua vita privata, certo, relazioni che ha, dell'agenda che ha, perché ormai è diventato un personaggio pubblico. Un personaggio pubblico. Ma io faccio questo di mestiere, io non faccio con tutto il rispetto, cioè io mi ormai la cosa non è più coperta, non è più coperta la cosa, ormai tutto si scopre, perché i signori del Vaticano fanno le loro inchieste, i signori procuratori del Vaticano, dunque tirano fuori carte, confessioni, eccetera eccetera. No, vabbè. Fino adesso hanno tirato fuori il delirio di un pazzo, ancora le carte sarebbe il signor Balda, sì, esatto. il delirio di un pazzo ma ha detto che ha lasciato il suo baby doll in un albergo di Firenze. Esatto. Ha detto che io faccio parte della mafia cinese. Ma il baby doll è vero o no? Il baby doll è vero o no? No. Lei lo usa? No. L'albergo di Firenze, Panariello, che avreste visto insieme, secondo il signor Balda. Andati a Firenze per un convegno. Poi dopo oggi c'è un articolo meraviglioso che svela i rapporti di Monsignor Balda col Panariello. Dai quali io prescindo completamente. Io ho conosciuto, maledizione, a quel giorno l'ex moglie di questo Panariello, che mi si era proposta. Ma perché io dico, signor Monsignor Balda dovrebbe frequentare Dio, il Papa, Panariello. Divento pazzo. Era pazzo di lui. Ma lei ce l'ha il baby doll o no? Lo usa di solito o no? No, giusto così per sapere, perché io non mi faccio il suo marito. Anche no, per sapere, siccome è uscita. Questo si può dire. No, però questo si può dire perché è uscito fuori. Ma lei cosa usa? I boxer o il mutandone? Nulla, glielo dico io, cioè non usa nulla. No, come no, le mutande le uso. La risposta però ci deve essere uso, no, il baby doll, perché è uscita fuori, non è che l'abbiamo tirata fuori. Non le sto chiedendo se adesso c'ha le mutande oppure gli slip di un certo tipo. Questa sarebbe una domanda oggettivamente poco interessante, anzi no, interessantissima, ma in realtà lei non risponderebbe. Però il baby doll bisogna rispondere. Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Allora, caro Parenzo, ho pensato a una cosa nel frattempo, no? Perché c'è questa notizia, no, a proposito. Voglio capire una cosa. A proposito di Leopolda, aspetta, sì, adesso torniamo subito. Ma lei andrà alla Leopolda, signor Ciaucchi? Forse domenica faccio un salto. Ah, beh, questo è importante. Semplicemente oggi non sono lì, semplicemente perché domani ho il B-test per mio figlio. Ah, il B-test sarebbe... perché lei è incinta. Se il B-test è quello che tu non sai che cos'è, perché se ne occupava sempre la tua. Ma no, ma io me ne sono occupato 10 anni fa, quando è nata mia figlia, che ha 10 anni. Comunque, adesso la notizia è lei domenica. Perché non la chiama, se è femmina, dovrebbe chiamarla Viola come mia figlia. Bellissimo, le piace Viola. Ma perché come tua figlia? No? Bellissimo, Viola è stupendo. Bel nome, Viola è meraviglioso. Ma io credo, non lo so che nome darò. Ancora non sa il sesso, l'abbiamo parlato l'altra volta. Francesca, appunto. Non so nemmeno se chiederò di saperlo o meno. Ah, però no. Lei domenica veramente vuole andare. Allora, però sulla cosa. Se permettendo, ma vuole parlare anche? Si iscrive a parlare? Sarebbe bellissimo. Non ho niente da dire. Bellissimo. Ma io non faccio la politica. Ma non si sente in imbarazzo della situazione? Ma mica vanno soli politici, condizioni in cui è di andare alla Leopolda, magari l'idea di mettere in imbarazzo Renzi e i Leopoldini, non so neanche come si chiamano, con la sua presenza, no? Ma cosa ho fatto di male? No, io glielo sto chiedendo. Io lo chiedo a voi, cosa ho fatto di male da creare imbarazzo? Per me nulla, guardi, più imbarazzo crea il Vaticano, per me meglio è. Per cui si figura, per me lei è benedetta, è santa. È una difesa da Cruciani, si faccia qualche idea, signora. Attenzione, perché l'imbarazzo è il Vaticano che l'ha creato a me, dando retta e accogliendo quel memoriale delirante di un matto. Quindi matto diciamo è sempre che bello. Lei è stata messa in imbarazzo dal Vaticano, cioè accogliendo quelli, quello si difende, presenta i memoriali che vuole, quelli no, che fanno. No. Quando tu allora io domani vado in aula con un elefante e me lo faccio accogliere come prova, come arma del delitto. Ho capito, ma quello ha detto. Ho capito, ma lui. E guardi, l'elefante e il memoriale di Balda hanno la stessa valenza processuale. Beh, ho capito, però allora che sono pazzi i giudici là, quelli che fanno l'inchiesta in Vaticano ad accogliere il memoriale. Lei dice non questo. Non ho detto questo, però ho detto se dobbiamo parlare di imbarazzo, parliamo di questo. Cioè sono loro che mettono in imbarazzo lei accogliendo il memoriale di un malato, cioè devono prendere sto memoriale e buttarlo. Che devono fare? Non lo so cosa avrebbe dovuto fare. Però se io domani vado in aula con un elefante dicendo guardate, questa per quanto riguarda la prova sono andato a letto con un elefante, sì. La prova dei documenti è che porto questo elefante come prova che io non ho dato i documenti e l'accolgo con l'elefante come prova, è uguale, identico, la stessa valenza processuale. È diverso, quelle sono le parole. No, uguale, identico, anche perché comunque se avessi fatto non una ma mille notti di sesso con Balda, questo non avrebbe inficiato minimamente il fatto che lui sia andato a distribuire documenti come se non ci fosse un domani. Tra l'altro dice di aver confessato tutto al Papa, di aver ammesso anche la sua, come dire, il fatto del Balda l'ultima volta che ha visto il Papa è stato a marzo, dopodiché Balda non l'ha più visto. Lui dice di ha confessato al Papa la violazione del voto di castità, cioè ha confessato che Balda, insomma zoom sì, faceva Ma nella sua mente io credo che lui facesse tante cose, poi dopo nella realtà ho capito, ma se ha detto che ha violato il voto di castità, evidentemente è strano che lo dica. Non so se con i maschi o con le donne. Ma voi avete compreso perché questa persona comunque decide di creare questo memoriale? Perché? Me lo dica lei, sì. Perché? perché lui aveva già confessato durante gli interrogatori che c'era stato questo passaggio della password annuncio ai documenti di Emiliano Fittipaldi. Dopodiché il suo avvocato, che stamattina peraltro ho querelato l'avvocato, sì, Antonio Zaccaria, le consiglia, sì, di crearsi un alibi per sostenere il fatto del perché. Questo lo dice lei, questo l'abbiamo già detto. No, questo è degli atti, questo risulta. No, questo l'abbiamo già detto l'altra volta, sì. Allora, che cosa fa? Gli suggerisce, diciamo così, di mettere nero su bianco il fatto che lui avesse passato qualcosa che lo rendesse ricattabile. Quindi lui si inventa questa notte di sesso, nell'unica volta che siamo stati fuori insieme, dove c'era peraltro anche la mamma, ripeto. E a fronte di questo si inventa. Per Panariello, quello era l'episodio. Esatto, si inventa il fatto che Gianluigi Nunzi ed Emiliano Fittipaldi sapessero questa relazione che c'era stata e di conseguenza lo minacciavano dicendogli: o tu ci dai le carte. Ma è vera o no questa cosa che i giornalisti. Questa cosa è vergognosa. Gianluigi Nunzi ed Emiliano Fittipaldi sono due persone serissime, due giornalisti serissimi che si stanno sottoponendo ad un processo per le dichiarazioni di una persona. Ma lei ha passato qualche informazione a Fittipaldi e Nunzi, sì o no? No, mai nessuna informazione, mai nessuna informazione. Però Balda si sarebbe sentito minacciato dai giornalisti. Così no, dice lui. Si scrivevano messaggini con Balda. Guardi, ci sono dei messaggini in cui lui. Balda tanto si sentiva minacciato da Gianluigi Nunzi che gli mandava dei cuoricini e gli diceva: non è vero, diceva, giuro. Ma come i cuoricini? Giuro, i cuoricini. Il monsignore che manda i cuoricini, amico mio, non è possibile. Manda i cuoricini, Gianluigi lo potrà confermare. E gli scriveva: siamo una bella squadra, Dio è con noi. Questo era il livello di minaccia. Cuoricini. Cuoricini. Con Emiliano Fittipaldi. Se voleva andare a letto con Nunzi, no? Non credo. Non credo che cuoricini io li mando. Io gli cuoricini li mando. No, con Gianluigi, perché la sua eterosessualità. Io lo. Non ho mai mandati nemmeno alle donne, figuriamoci agli uomini. Odio i messaggini gli emoticon. Con gli emoticon, comunque, queste cose qua. E invece con Emiliano Fittipaldi era Fittipaldi che lui gli mandava. Lui non gli piaceva invece. Che gli mandava. Attenzione. Ed Emiliano gli diceva: ma guarda, che queste non sono notizie, non posso pubblicarle, lasciamo stare. Quindi queste erano le pressioni che riceveva Balda. È solo vergognoso. È una vigliaccata di una persona. Ma lei proprio ormai non lo sopporta. Cioè, ormai no, lei non pure anche lo. Anche perdonato il mio fioretto per il giubileo, il perdono a Monsignor Balda. Perdona a Monsignor Balda. Il baby doll ce l'ha o no lei? Dai, ho capito, che devo fare? Il baby doll ce l'ha, un baby doll o no? Marito usa sorride, o no, marito doll? Sorride dietro. Ma scusa, ma è certo che sorride, perché sono cose divertenti, belle queste qua, la cronaca, i dettagli delle cose, è meraviglioso. Dovresti fare queste domande. Per esempio, la signora Sciaughi, a me mi con fa lo sguardo lo sai, del lo marito che cosa? Mentre fai la domanda. Guarda, lo farei lo stesso, perché mi sono liberato. Sì, lo so, mi sono liberato, però mi sono liberato, mi è venuto fuori il demonio. Allora, la cosa vera è che a me, lo sai che mi fa impazzire la signora Sciaughi, l'accento calabrese, mi fa impazzire. Un po' sì, la calabrese ce l'ha un po'. Io non sono di Catanzaro, io sono di Cosenza. Sì, ma la cosa aspirata calabrese ce l'ha. Beh, questo non si può negare. Ce l'ho. Ma come io ho l'accento romano, lei è calabrese, ma è meraviglioso. Io adoro gli accenti. Questa cosa calabrese è stupenda. Una persona che ha tutte. Guarda, se parla in calabrese, lei non mi capisce neanche una parola. Parliamo un po' in calabrese, allora. Io per dire cose importanti, poi facciamo tradurre. Sì, allora, ce l'ha il baby doll o no? Ridai. Guarda che te lo li usa o no? Li usa o no? Ma è fondamentale questo dettaglio sulla mia bagheria. Assolutamente, fondamentale. Ma lei usa i boxer? Io sì, assolutamente, questo io lo posso usare, uso i boxer. Ma quelli stretti o quelli larghi? Quelli larghi, quelli preferisco larghi. La cosa stretti, che lei, signora Ciaucchi, deve sapere. Ma come no? Perché lei usa, perché lei usa le cose. Lei a lei piacciono gli uomini con quelli che con le mutande strette. Ma non quelli che hanno i pantaloni della nonna. Che ma no, i boxer pazzesco. Normali. Cioè, una visione boxer che comodi. Portare, boxer comodi. Mio. Ho visto che suo marito c'ha un po' di pancetta, però, signora. Da dove la vedi? Devo dire, nelle foto ha un po' di pancetta. Bisognerebbe dire a suo marito di dimagrire un po'. Però è alto, ha delle mani che sono delle vanghe. Secondo me, vieni qua ne provi una in però faccia. Deve dire a suo marito di dimagrire un po'. Sono d'accordo. È vero che c'è un po' di pancia. Ma sai una cosa? Lo sai che allora Monsignor Balda aveva un personal trainer. Gliel'ha consigliato lei, appunto. Ho letto oggi delle cose incredibili. Ma non era mio, era di mio marito, proprio per sta pancetta che lui comunque lo utilizzava proprio. Ma perché ha consigliato il suo marito o lei avete consigliato a Monsignor Balda il personal trainer? Sì, anche questo è un po' diabete. No, dove allora io gli ho consigliato il personal trainer perché lui ha il diabete e quindi il dottore gli aveva prescritto di fare movimento e quindi io poi da che lui doveva andare in una palestra a fare un po' di moto si è trasformato questa cosa di andare a fare arti marziali in un collegio, l'ho letto dai giornali, questa follia. Ma è vero che ha consigliato anche un tale che sia Belfiore, che è un personal shopper? No, allora questa storia di Belfiore è divertentissima. Allora, intanto Claudio Belfiore è un personaggio unico, è stato il ma chi è sto Belfiore? No, è meraviglioso, è uno, parlare di Castore e Polluce. È il più grande. Sì, ma non è che la gente sa chi è quel fiore. No, scusate. Ve lo racconto perché è un personaggio splendido. Allora, costui è un esponente fondamentale di quello che era il look dei tempi della Dolce Vita. È un personaggio incredibile. Ma gliel'ha consigliato lei o no? No. Come personal Balda shopper. Balda c'ha la mamma e fa da badante a questa signora. A un certo punto la signora dalla Spagna doveva tagliarsi i capelli. E quindi Balda mi chiede: dove posso portare la mamma a tagliarsi i capelli? Ma perché dico, tutto a lei chiedeva sto Balda? Scusi, non ho capito. Ma non conosceva nessuno. E quindi niente, allora in pratica mi chiede: diventano amici. Dove posso portare la mamma a tagliare i capelli? Io gli dico: portalo da Claudio. Sì. Lui, il primo giorno ci porta la mamma. Il secondo giorno da Claudio si piazza lui e comincia. Prima volta a farsi tagliare i capelli, poi a farsi mettere lo smalto. Lo smalto? Sì. Si faceva, la manicure, ma nei piedi con un po' di lucido. Ma ragazzi, ma i preti, io dico sempre i preti, poi uno deve credere ancora nel Vaticano. Nelle ma che c'entra adesso questo? Scusi, e poi, a ben saputa, e quindi comincia, diciamo, un percorso di riabilitazione dell'immagine del Monsignor Balda con Claudio, di cui io non sapevo completamente nulla. Io ho mandato lì la madre a farsi i capelli. Ma pure l'autista pare. Pure l'autista gli ha consigliato. Vabbè, adesso voglio dire. L'autista. Ma perché dovrebbe avere l'autista, signor Monsignor Balda? La chiesa deve essere povera. Questo non era un autista. Era. Allora, Monsignor Balda, nell'ultima fase della sua. Ha sbroccato. Esatto. E quindi in questo sbrocco andava in giro con. Molti uomini, eccetera. Quindi forse io ritenevo che una figura terza potesse in qualche modo farlo evitare qualche sospetto in meno nella curia, che ormai era già fuori. Cioè, voleva mettere un altro corvo lì, un altro, il suo personale corvo, qualcuno che lo controllasse. Ma non qualcuno che lo controllasse, perché poi dopo comunque c'era poco da controllare. Però le voglio chiedere una cosa: alla fine, questi sono dettagli, la gente non conosce i nomi, eccetera. Alla fine, questo signore qua è omosessuale o no? Perché questa è la risposta, una delle risposte che mi mancano. Sì, il signor Balda, al di là di tutti i misteri, eccetera, eccetera. È omosessuale o no? Allora, Cruciani, io non lo so, non l'ho mai visto andare a letto con nessuno. E lei ce l'ha? Lei li usa i baby doll o no? Ma lei li usa? Sì o no? Ma lei li usa? No, per sapere, siccome è uscita fuori Balda ha detto che ha lasciato il baby doll, lei li usa o no? Così una prova la tiriamo via. Se lei dice di no, non li uso. Invece se lei dice li uso, beh, allora si può discutere. No, allora la prova del fatto che io non avevo, la prova non è nel fatto se io li uso o meno. No, però lei li usa o no i baby doll? Ma io non glielo dico, ma lei li usa? Non vuole dire. Io no, perché se lei li usa non mi travesto ancora, non mi travesto. Un appuntamento con Balda, a quel punto possiamo verificare tutta una serie di cose. Che scena agghiacciante. Questo è bello, lei risponde a tono, per questo mi piace. Risponde a tono, mi piace. I rapporti di Renzi col Vaticano quali sono adesso? Matteo Renzi ha avuto un grandissimo pregio da Presidente del Consiglio. Ha allargato le sponde del Tevere. Non c'è stato più, da quando c'è lui, quella commissione fra politica e Vaticano che aveva caratterizzato il governo Monti e parte dell'ultimo governo Berlusconi. Ricordiamoci che nel governo Monti ci sono stati ministri direttamente eletti da telefonate che provenivano dalla Santa Sede. Beh, quello è sempre successo però in realtà. Comunque, lei dice che questa volta no, cioè il Vaticano ha provato a piazzare qualcuno dei suoi. Cioè lui è autonomo dal Vaticano, dice lei. Nel modo più assoluto e completo, cioè una completa, ci sono soltanto i rapporti istituzionali e i rapporti religiosi. Ma Marino l'hanno fatto fuori insieme, però il Papa e il Vaticano insieme, diciamo la verità. Cioè, ma non certo perché si erano messi d'accordo. Anche noi un po', anche noi un po'. Fuori ci ha messo del suo. Sì, però anche con la complicità della Zanzara, questo lo sappiamo, eccetera. Però Marino più Renzi, alla fine insomma si sono dati una mano per far fuori Marino, no? Ma non certo in modo concordato. Io guarda, posso assicurare questa cosa, sia per quanto riguarda le nomi. Cioè, attenzione, qua c'era un mondo qualche tempo fa che esprimeva delle persone che facevano i responsabili affari istituzionali della RAI perché vicini a determinati cardinali. Cioè, il mondo di qualche tempo fa non è il mondo di oggi. Quando a me dicono che io ho avuto vantaggi dal Vaticano. Cioè, i cardinali hanno nominato gente direttamente alla RAI. Vabbè, questo sì. Direttamente questo alla RAI. Anch'io lo so. Nomi e cognomi. Nomi e cognomi. No, li fate ma voi. Ma decine di persone o centinaia di persone? Beh, per l'intanto io ne conosco una. Poi dopo. Per esempio, vi ricordate Toniato, quel personaggio incredibile che lavorava al Senato? Sì, io me lo ricordo, ma la gente non lo conosce. Santa Sede. Alle dirette dipendenze della Santa Sede. Cioè, la Santa Sede ha fatto quello che voleva. Diciamo, ha sempre fatto quello che voleva. Adesso, invece, chiedete a me quante nomine ho fatto io. Ma lei che c'è? Lei l'ha nominata. Lei l'ha nominata. Quante persone io ho l'ho suggerito, pur forse avendo... Beh, qualcuno l'aveva selezionata, ne avrà suggerita anche neanche lei. Una. Io non c'è un mio solo amico che ha ricevuto, un solo politico che ha ricevuto un curriculum di un mio amico. Il Papa è contento di questo processo. Qualcuno dice che è molto scontento che stanno uscendo tutte queste cose e pensa ad una grazia per farla finita con questo filicidio. È molto scontento di tutto quello che è successo, sia di come stanno andando le cose, sia delle cose che sono uscite. Vabbè, questo spero è chiaro. Che lo conosco bene, quindi non sta pensando ad una grazia. Chi dice che il Papa... Lei la rifiuta processo... comunque, lei la rifiuterebbe io comunque. Io la rifiuto questo completamente. L'abbiamo già detto. Ma Papa Francesco non però ci ha sta detto pensando, anche ragazzi. Che la sua nomina fu un errore. Anch'io ho detto che il fatto di averla accettata è stato un errore. Quindi su questo siete d'accordo. Senta, ma volevo capire questo, perché hanno scritto anche questo i giornali. Ma è vero che suo marito avrebbe mandato un messaggino a, come si chiama, a Monsignor Balda dicendo dai una mano? Sì, è vero. È vero che mio marito ha scritto questo. Dice Francesca è arrabbiata, devi fare qualcosa, trovargli un ruolo perché altrimenti quella parla. Questa è la sostanza. Se Francesca fosse stata veramente arrabbiata, le cose oggi sarebbero diverse. Francesca si arrabbia a parole, ma poi dopo a fatti si arrabbia finito. Quindi lei dice quel messaggino c'è stato. Quel messaggino c'è stato e ora ve lo spiego. Allora, il fatto è questo: io avevo in corso. A un certo punto la commissione doveva sparire. Se era perché il cardinale Pelle aveva fretta di tornare dall'Australia, signor la commissione Pelle. Doveva sparire. Cardinale? Il cardinale Pelle doveva tornare di corso. Ma perché non parlate con Dio e parlate con i giornalisti? Io non capisco. Perché no, non lei, lei. No, ma in generale, queste persone, anche lei poi parla con i giornalisti. Perché? È il mio lavoro. Sì, ma perché dovrebbero. Voi dovete parlare una commissione, perché poi i giornalisti hanno fatto dei libri meravigliosi. Ma non ho parlato con i giornalisti, no, ma posso, come posso no? Hanno consegnato no, documenti. Dice, lei non è un prete, lei è una suora, lei fa il suo lavoro di PR. Se il Vaticano voleva che io non parlassi più con nessuno, doveva prendere il mio e i miei ultimi 3 anni di stipendio, fare una media e affidarmi un lavoro in modo che io comunque mi chiudevo in Vaticano di casa, mi mettevo pure io sull'attico e lavoravo. Quando il Vaticano mi ha chiamato per un servizio gratis, io ho continuato a fare la mia vita, il mio lavoro. Ma lei chi l'ha nominata? Lei, questo è il grande mistero. Chi è che da chi viene consigliata lei? Cioè, chi è che dice prendete la Sciauchi per far parte di questa commissione? Chi? Io si è parlato della idea. Massoneria, le cose. Sì, certo, si è parlato anche dell'alieni, degli alieni, l'ho detto io. Turan, no. Turan. No, no, no, no, il cardinale Turan non c'entra niente con questo. Vi spiego soltanto questa cosa, messaggino. Allora, il cardinale Pell voleva chiudere la commissione. Era in corso ancora il mio progetto, che attenzione è stato l'unico che è stato realizzato da cima a fondo, quello della unificazione dei media, che era costato 800.000 euro alla Santa Sede e che io volevo portare a termine. Quindi quando mio marito manda quel messaggio si riferisce al fatto fategli finire sta cosa, perché sennò questa qua si arrabbia e c'ha ragione, perché io quando lei si arrabbia è un casino. Il baby ancora doll, mi sono arrabbiata fin troppo poco. Il baby doll lo porto o no? Parenzo, guarda, voglio avere questa immagine. Mi faccia dormire stanotte con questa immagine di lei col baby doll. Lei deve sapere. Lei la mette la maglietta. Lei deve sapere questo. Io voglio dirglielo in diretta. Deve sapere questo: che Cruciale non solo porta i boxer, ma ne porta uno a settimana. Quindi li cambia poco. Vero, li cambia poco. Come l'ho già detto la radio mille volte, li cambia poco i boxer. Ma perché? Ma perché li cambio? Perché sono distratto. Sono distratto. Era capricciante. Però piaccio anche per quello, sia Ciauchi, cambio piaccio anche per favore, cambi boxer, è una cosa vergognosa. Se lei cambia quelli boxer, che ho addosso l'ho cambiati oggi se perché lei, sono andato a correre. Boxer, lei mette il baby doll. No, lo metto all'asta. A questo punto lancio un'idea. Mettiamo all'asta il baby doll e diamo c'è il baby doll allora. Ecco, bravo, c'è il baby doll allora. Bellissima questa cosa. No, posso anche andarla a comprare, non ho detto che c'è, se uno usato o nuovo. Il baby doll c'era e lo metto all'asta. Bellissimo, stupendo, meraviglioso. Non ho detto che c'era. Ma perché che male c'è dirlo? Ma di non che capisco. Marca porta i boxer lei? Che marca guardi, li prendo ai mercati dell'usato, no, ma li prendo ai mercatini a 5 euro ogni 3 boxer. Più o meno. Oddio. Che ma che devo fare? Sono fatto così. Sono fatto così. Grazie, a presto, ciao. Ciao. Grazie, ciao. Arrivederci. Ciao. Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, sì. Cruciale. Sì, dimmi. Sì. Eri depravato o sei diventato depravato? Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento La Zanzara. Allora ragazzi, tu sai perché mi sta simpatica alla fine la signora Ciauchi, no? Perché chiaramente con tutto quello che dice contribuisce, secondo me, poi lei nega, alla distruzione della Chiesa. Bellissima questa cosa. Non credo che lo non faccia è il suo intento, però intento. Contribuisce a questo alla fine, no? Tutto quello che è successo, no? Quello è contribuisce, no, a creare questa atmosfera di delirio intorno alla chiesa. A proposito, tu sei un po' come Joker di Batman. Sì, sì, un po' sì. The Agent of Chaos. Allora, devo dire un'altra cosa a proposito della questione dei risparmiatori, della Leopolda, delle banche, eccetera. Hanno proibito ai comitati, sai quanto a me danno fastidio le manifestazioni, no? Sì, cioè, di manifestare lì davanti. Allora, vabbè, no, d'accordo. No, come Parenzo? Insomma. Parenzo, guarda, adesso ti scateno contro i cani randaggi. No, ti scateno contro i cani lupi. Cioè, tu sei a follia. Favore no, di tutte le manifestazioni possibili, immaginabili, e adesso mi dici ma non vabbè dentro. Una manifestazione. Ma che ma dentro? Non dentro? Guarda che sei una vergogna. L'hanno spostata, allora hanno ragione. Dove? Ma per no. ragioni di sicurezza. Ma ragioni di sicurezza. Credo, permettono, ma è chiaramente una hanno vietato. Ah, meno male, hanno vietato. Davanti no, è una stupidaggine, la ragione di sicurezza. Davanti alla Leopolda, credo. Per ragione di sicurezza, la manifestazione dei comitati, dei, chiamiamoli così, dei truffati, dei risparmiatori truffati nella vicenda delle banche, che volevano fare una manifestazione davanti, giustamente, davanti alla Leopolda domenica. Io odio le manifestazioni perché non portano a nulla, e anche questa non porta a nulla. Però, se permettono ai Black Bloc di distruggere Milano e consentono le manifestazioni ai Black Bloc che poi distruggono Milano, a estremisti di ogni risma, di distruggere le città, allora amici miei, dovete consentire, dovete permettere che quattrocento persone incazzate perché hanno perso i risparmi possano pacificamente manifestare di fronte alla Leopolda dove c'è Renzi, perché altrimenti siete dei buffoni, perché quando si tratta di manifestazioni che evidentemente, già lo si sa prima, portano a violenza eccetera eccetera, va bene tutto e poi facciamo il conto dei danni. 500, 600 risparmiatori che hanno perso un sacco di soldi, i loro risparmi, devono poter manifestare. Io, tra parentesi, rimango contrario alle manifestazioni perché non portano un cazzo, però se loro vogliono devono poter manifestare di fronte alla Leopolda. Non rompeteci i coglioni con queste cose della sicurezza, perché i quattro pensionati o le famiglie distrutte non fanno nulla di male. Ah, Damiano da Varese, dai, che cavolo, non si può vietare la manifestazione davanti alla Leopolda per motivi di sicurezza, dai, è una cosa ridicola quando le città, sì, vengono, quando le città vengono devastate, dai, le città vengono devastate da quattro delinquenti e consentono qualsiasi tipo di manifestazione. Adesso immagino quattro... l'abbiano fatto, dai. Non per ragioni di decoro, ma per vere ragioni di ordine pubblico. No, però sì, ho capito, ma quali sono le ragioni di ordine pubblico? Quelli vogliono fare una manifestazione una di protesta. Se lì, è molto verosimile che a Renzi gli dà fastidio vedere davanti alla Leopolda quelli con i cartelli che urlano. Ma chi se ne frega di quello che dà allora fastidio a Renzi? Allora è verosimile però che magari qualcuno avesse detto: ma guarda, se lì in mezzo c'è qualche matto che magari poi fa casino, meglio spostarla a 100 metri, 300 metri. Che però, ne so. Ma chiaramente è una sciocchezza, è sbagliato. Sì, ma soprattutto abbastanza... per i precedenti. Sì, non è sbagliato in generale, ma anche per me no, come no, c'entrano in questo caso, cioè, le ragioni di ordine pubblico. No, secondo me, guarda, io ti dico, secondo me è sbagliato fare le manifestazioni, consentire le manifestazioni, ma no, davanti, ma perché? Non è vero. No, di principio io sono contrario per motivi di ordine pubblico. La gente la domenica c'ha altre cose da fare. Io ad esempio, però, scusami, ti ho detto altre volte che i gruppi di antiabortisti, quelle cacchie di, come si chiama, le sentinelle, quello sedute, che c'è, lì, non fanno niente, oh. No, ti ho detto che reputavo inutile, sbagliato, ti rendi conto, quelli sono immobili fermi. Reputavo sbagliato che le sentinelle in piedi manifestassero davanti alle cliniche dove vengono fatti gli aborti. Ma ti rendi conto della boiata? E lo dicevo, che hai detto, se no? Ti ricordi, lo dicevo perché conosco il calvario di quelle donne che già devono andare a fare una cosa non simpatica. Se in più si trovano questi, vabbè, ma quello, ma... con le foto dei feti lì davanti, lo trovavo inopportuno all'epoca. Dissi questo, comunque, no? Ragazzi, è assurdo vietare a questi signori. Caso, dai. Non vale per Damiano questo. Damiano Varese, dai, Damiano. Pronto, buonasera. Dimmi. Buonasera, Cusciani. Dovrebbero mettere l'ergastolo ai vertici di quella banca lì. Come? Metterli all'ergastolo e farli morire di fame. Cioè l'ergastolo ai vertici della banca Etruria, di quelle banche lì. Bravo, non solo loro, anche quelle più in alto che non hanno vigilato. No, ma secondo me dovrebbero punire severamente, adesso non so se con l'ergastolo, eccetera. Dovrebbero punire severamente quelli che hanno detto cazzate, no, che hanno la ghigliottina ai dirigenti della Banca Etruria. Bene, in che senso non la ghigliottina? So. Cioè lei proprio li condannerebbe a morte sulla pubblica piazza? Guardi, li ecco, bravo, darli in mano a quelli che sono stati truffati. Darli in mano, giustizia, consegnarli in mano. Bene. Sì, certo, darli in mano, e così servono di lezione anche i prossimi che ci vogliono tentare. Va bene, Damiano. Tanto molto... non finisce qua, fra qualche tempo ci saranno degli altri di queste cose, per cui... Cioè lei proprio per la pena di morte per i responsabili delle banche. Pena di morte magari è un po' esaggerato. Ma come no, ha detto impiccagione, ha detto consegnare nelle mani, ghigliottina, e io ho detto pena di morte, dice no, la pena di morte no. Ma no, dai, capito? La pena di morte siamo buoni, quella siamo buoni. Un momento di rapa, questi però... sono quelli che scrivono su Facebook, no, su Twitter, no. Ti ammazzo, ti voglio ammazzare, ma io non intendevo ti no, voglio ammazzare, ma che vuol dire? Però daglieli in mano a quelli... Ma che uguale, è la stessa cosa. Luca da Modena, vai Luca. Dimmi, Luca. Sono Luca, quello che ho portato il letame alla San Paolo, che ce l'avamo sentito fino a settembre. Ma io non lo so, non posso conservare la memoria di tutte le telefonate, amico mio. Comunque, vabbè, hai portato il letame alla banca, allora? Certo, non sono tra quelli che hanno perso dei soldi con queste quattro banche qua, ma questo scandalo deve servire per portare alla ribalta tutto quello che fanno le banche. Sì. Perché c'è usura nel 90% dei conti correnti, dei mutui, dei prestiti. Io sono stato minacciato dal direttore di una filiale del mio paese perché ho chiesto i documenti del mio conto corrente degli ultimi 10 anni. Lui mi ha chiamato in direzione e mi ha detto: beh, zampa fa, allora se non ti fidi mica della banca, chiudiamo il conto subito, dacci quello che ci viene, siamo già a posto. Luca, purtroppo il capitolo che riguarda le banche è molto lungo, si potrebbe scrivere un capitolo lunghissimo, magari lo apriremo nelle prossime settimane, la prossima battaglia alla Zanzara contro le banche. Beh, mancavano questi poteri. Dici? Io sono d'accordo, figuriamoci. Anzi, è... Fermi tutti! State ascoltando un programma offerto da... San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. (393) 71 71 701. Troppi sguardi a una ragazza. Maxi Rissa ad Isernia, 7 finiti in ospedale. Cruciani, dopo che hai letto o sentito questa notizia, no? Tu veramente devi vergognare di te stesso, perché tu sei una delle piaghe sociali della società italiana. Prima di conoscere il tuo programma, no? Non sapevo che in Italia ci sono ignoranti come te, ti giuro, è così. Vuoi le donne nude? Allora inizia dalla casa tua, prego. Quanto mi sta sul cazzo Parenzo, mamma mia, come mi sta sul cazzo! Parenzo, smettila di chiamarci miserabili, che chiamiamo anche Lotto. Smettila di chiamarci miserabile, che se vedo davanti alla 7 magari metto la prima e vado dritto. Smettila di chiamarci miserabili, ti prego, vai via se ti fa schifo, vai via, vai via. Parenzo, ma se ti dà così fastidio venire alla Zanzara invece che stare lì con i tuoi amichetti a sorseggiare lo champagne, a disquisire di cose colte, stai a casa. Perché vieni e ti becchi sempre gli insulti di Donato da Varese, di Mauro da Mantova, di tutti quei pazzi che dici che frequentano la tua, anche tua trasmissione? Perché? Per i soldi. E allora non sei in un certo senso anche tu una prostituta? Parenzo come Efebal. Parenzo come Efebal è bella, però questa qua è una bella metafora, Parenzo, devi ammetterlo, dai. È una bella metafora, dai. Metafora. È una bella metafora, Parenzo come Efebal. Siamo un po' tutti Efebal, diciamo la verità. Siamo un po' tutti Efebal. Puttane, come diceva. Chi è che lo diceva? Giuliano Ferrara. No, diciamo. Anche la Chirico. La Chirico, siamo tutti puttane, sì, esatto. Siamo tutti un po' puttane. Allora, andiamo, Antonio, provincia di Catanzaro, vai. Buonasera a tutti quanti. Vai, Antonio, vai, vai, evviva la Zanzara, allora, vai. io vi volevo dire. E viva che hai detto? Scusa, prima, scusa, mi è sfuggita una cosa. Che hai detto? Viva? Ah, il Duce, il Duce. Ma come viva il Duce? Scusa, Antonio, però viva... Parenzo, non hai sentito? Ti è sfuggita questa cosa? Sì, ho sentito, ma vista l'ora tarda. Bene. Ma perché viva il Duce, Antonio? Perché? Perché è un idiota. Perché io, è un idiota. Io, aspetta. Stai zitto, Parenzo. Stai zitto, ascolta. Stai zitto, non io nel lo potevi dire negli anni 30. Qui se lo dici ti becchi una testata in faccia. E mi candiderò. Io nel giro di 5-6 anni non esiste mafia, non esiste niente. Sai perché? Perché? Perché basterebbero poche leggi. Poche leggi. Sì. Ti faccio un esempio, giusto per... Vediamo. La polizia fa un'operazione che arresta 50 mafiosi, si fa un processo, si viene a sapere che loro sono veramente mafiosi, tu li ammazza tutti quanti. Il metodo Antonio. Eviti soldi, eviti problemi soldi. Eviti che queste persone escono e faranno un male, perché già ce ne sono 50 in meno. Tu rubi, io ti ammorzo le mani, ti metto un po' di sale e ti torturo. Sì, come in Arabia Saudita, tortura, dove ci sono le pene corporali. Poi faccio vedere quei video, il video deve essere farlo andare a casa dall'ospedale. Viene denunciato qualcuno per un furto, io ti faccio vedere quel video. Vedi, questo ha fatto questo ha rubato, caro mio. La seconda volta tu sarai senza braccia. E io ti farò vedere che nel giro di 5-6 anni, guarda, ti diverti anche a camminare dove vuoi. Però scusa, va bene, queste sono le tue ricette per, come dire, contro la criminalità, il terrorismo, gli zingari, eccetera, eccetera. Ti chiedo scusa. Che ne pensi degli zingari? Che ne pensi degli zingari? Di chi? Degli zingari, dei Rom. Allora, non è per me o zingaro o non zingaro, non mi interessa, basta che tu ti sai comportare. Ma il diserbante, che cosa volevi dire col diserbante? Il diserbante è una sostanza chimica che fa seccare l'erba, ok? A che serve? Come lo useresti? Ci sono delle persone umane che fanno del danno alle persone, delle persone normali, tranquille, fanno del male, tu le devi fare seccare, perché quella fa sempre danni. E come crea problemi al pomodoro, quando ci cresce vicino, non cresce. Tu invece la devi eliminare. Scusa Antonio, ma tu vorresti veramente il ritorno del Duce? Allora, l'ho detto come un senso di provocazione. Però ma come provocazione? Hai detto viva il Duce. Viva il Duce perché sono un simpatizzante. Beh, simpatizzante di quello che non esiste più, per fortuna è morto. Ma non esiste più neanche il comunismo. Vabbè, quello che c'è, per fortuna anche là. Però in Italia c'è. Cioè, tu vorresti, con lui si starebbe meglio. Con lui si starebbe meglio, tu dici. Ma allora io sono per tu rubi, ti taglio le braccia, ok? Ma sì, ma questo l'hai già detto. Tu hai violentato una donna, ti taglio l'uccello. Tu curati, però. Ti taglio il pisellino. Però tu curati. Mentre tagli, tu curati, però, perché quei farmaci che ti hanno segnalato per scritto non hanno effetto. Curati. In Italia curati. Non andiamo avanti perché abbiamo persone come te. Sì. Come e te. Tu però fidati, devi come cambiare te. Il farmaco. Ma fidati. Dai, ma non ma esiste fidati di me. Ma cambia che cazzo dite? Bisogna combatterlo con la cultura, farmaco. Cambia il farmaco. Finché c'è questo metodo, noi avremo sempre problemi. Finché persone malate sono in giro come te, ci sarà un pericolo per tutta la società. E disciplina. Ci vuole un buon ospedale, un buon medico e una buona puntura. Ma chiedo scusa, Parenzo, ma fammi capire. Chiedo scusa io, ma fammi capire. Scusa, ma fammi perché capire. Non hai cambiato terapia? No, ti faccio una domanda. Te la faccio io la domanda. Perché non hai cambiato terapia vedendo i risultati pessimi? Un pedofilo che è stato indagato è ancora libero a fare i porci suoi. Libero, è normale? Libero, una B basta. Non è normale? È normale? Normale. No, questo non è normale. Siamo i primi a dire che non è normale. Ma non parlare tu di normalità, perché ti assicuro che di normale in questa conversazione non c'è nulla. Ecco. Ciao Antonio, ciao. Arrivederci. Allora ragazzi, finiamo, non dico in bellezza, ma con una testimonianza incredibile di un caso di cui abbiamo parlato ieri, caro Davide. Voi ascoltatori restate in linea, quelli che sono ancora in attesa, perché sicuramente riesco ancora a fare qualche telefonata. Allora, abbiamo parlato ieri della gang delle rapine, che è stata inchiodata dai filmati, un bellissimo articolo ieri di Paolo Berizzi da Bergamo su Repubblica, e però è rimasta libera di colpire. Cosa significa? Che un gruppo di come possiamo chiamare? Di ladri, di delinquenti. Di ladri si chiama. Romeni, per un anno ha praticamente terrorizzato varie zone del nord Italia. Ogni volta rubavano e tornavano in Romania e poi ritornavano in Italia. Erano stati a un certo punto individuati dalle telecamere, però invece di arrestare alcune persone, volevano beccarli tutti, capito? Due componenti della banda potevano essere già arrestati a dicembre scorso, cioè un anno fa. Ma i PM puntavano a prendere tutti i membri, 5, e dunque il gruppo era libero di colpire ancora. Il PM firma la richiesta di arresto dei 5 componenti della banda lo scorso settembre, però siamo in attesa della firma, o anche del rifiuto, di un altro giudice, cioè del GIP. Questa firma ancora non è arrivata. Uno dei colpiti, delle persone colpite duramente da queste rapine, lo abbiamo qui ai nostri microfoni, si chiama Antonio Balestra, da 47 anni, buonasera. Buonasera, mi chiamo Adriano. Adriano. Ho 46 anni. 46 anni, bene, ho sbagliato tutto. Cividale al piano. Cividate al piano. Mi hanno scritto tutte cazzate. No, anzi no, Adriano me l'hanno scritto giusto. Antonio l'ho letto io sul giornale. Cividale, no, è Cividate. Allora, lei che azienda ha, Balestra? Allora, noi abbiamo un'azienda di famiglia che si occupa di costruzioni meccaniche, in pratica lavoriamo il ferro per capire. Quante rapine hai subito? Ti do del tuo, diamoci del tuo, così siamo più Fino all'8 dicembre l'anno scorso nessuna. Nessuna, dopo? Dopo l'8 dicembre hanno fatto la prima rapina, che era festa, e il 9 sera sono tornati per completare quello che non avevano portato via il giorno. Cioè due rapine, la cosa più grave, al di là del furto, cosa hanno rubato alla fine? Alla fine hanno rubato niente, si può dire, la prima volta hanno portato via tutto quello che hanno trovato di scarto all'interno dell'azienda, nel cortile, perché all'interno c'era l'antifurto, non potevano entrare. Sì. Mentre se la seconda sera, purtroppo è successa con la tragica, tutto quello che è successo di tragico. E cioè hanno colpito, chi? Tuo padre? Sì. Tuo padre, chi? Noi, allora, noi ci siamo trovati quella sera lì che stavamo chiudendo, siamo usciti. Abbiamo intravisto il nostro camioncino in fondo al vialetto interno del del cortile, diciamo. Sì. E quando ci siamo avvicinati, uno di loro ha cominciato a gridare come un pazzo, è salito sul camioncino e mi ha investito due volte. Che conseguenze hai avuto tu? Io ho fatto la frattura del naso sotto degli zigomi, cioè mi sono fatto operare tutto il viso, sì. il polso, e vabbè, dopo contusioni e varie, tutto il corpo. Tuo padre invece? Mio padre l'hanno messo lì, l'ha ridotto in fin di vita. Mm. Ma come, col pullman o con bastonate, diciamo, a sprangate? Calci e pugni. Ha preso. Ma attualmente come sta? Ancora delle conseguenze di quello che è successo? Mio padre è invalido al 100%. Invalido al 100%. Sì, tutta la parte sinistra del corpo. Ecco, questo è quello che è successo. Furti più conseguenze gravi dal punto di vista, come dire, della salute, no? Sulla tua famiglia, che si ripercuoteranno per tutta la tua vita, diciamo, per tutta la vostra vita. Di fronte alla notizia, innanzitutto, come l'hai saputa la notizia che questi qua potevano essere arrestati? L'abbiamo saputa dal giornale, perché parlando con gli investigatori ci hanno sempre detto che c'era riservo delle indagini, delle notizie, certo, non potevano dirci niente, che erano a buon punto e che tutto procedeva per bene. Infatti, secondo me, ci sono sempre stati vicini, sono venuti spesso a trovarci. Ecco, ai magistrati che non chiudono questa vicenda, che potevano arrestare le persone, non le hanno arrestate, e che adesso manca una firma, cosa vuoi dire? Che è assurdo, se è vero la notizia che è uscita sul giornale, è una cosa assurda. Cioè, cosa dobbiamo aspettare? Che rovinino un'altra famiglia o ammazzino qualcuno prima di portarli nelle patrie galere? No, ma tra l'altro, voglio aggiungere che le stesse persone, probabilmente, che vi hanno colpito a sangue, sia te che tuo padre, probabilmente potevano continuare a farlo. Potevano continuare a farlo anche in questi mesi, no? Anche adesso potrebbero continuare, perché sono, da quello che mi risulta, sono liberi, no? Sono a piede libero a sentire la notizia sul giornale, quindi sono liberi di scorazzare. Mannaggia. Andare in Roma. Io li chiamo, alla fine adesso li chiamo i turisti delle rapine. Cioè, questi vengono in Italia, si fanno una settimana di rapine e poi se ne tornano a casa in Romania. Turisti del crimine, ma sei un po' incazzato con quelli che non chiudono questa vicenda? Ovviamente sono molto arrabbiato, ma non perché. Allora, io sono uno che dice: hanno fatto una rapina, hanno fatto un crimine, giusto che ne paghino le conseguenze, vorrei le pene certe e dure, perché chi fa certe cose non può uscire dopo due anni, tre anni e essere già in giro a piede libero. E questa è una cosa, ma qui il problema è che la prima. Il problema è che seconda la seconda che è più grave, secondo me, è che siano in giro. Certo, io spero che non facciano del male, non lagano nessuno quello che abbiamo passato noi. Speriamo che finché sono in giro siano almeno monitorati, siano controllati, che ne so, che non succeda nulla. Vabbè, grazie. Sì, devono... Buonasera. Ciao Adriano, grazie. Ciao. Vi rendete conto di quello che succede? È incredibile. Dai, su questo ha avuto il padre paralizzato al 100%. Questi possono essere arrestati, non li arrestano perché manca una firma. Sì, il magistrato dice che bisogna prendere tutti e cinque. Questi fanno avanti e indietro tra Romania e Italia. Ovviamente stiamo leggendo le notizie che sono uscite ieri. Speriamo che sia tutto vero, ovviamente. Andrea Livorno, vai. Andrea, per chiudere. Andrea. Sì, salve. Volevo dire che i risparmiatori delle banche salvate dal governo, secondo me, sono dei babbei, dei coglioni che meritano di perdere assolutamente tutto. Oh, guarda, babbei e coglioni, perché? Babbei e coglioni, e glielo dico, glielo spiego, perché io, a capire che questa è un'obbligazione subordinata, visto che anch'io sono un piccolo investitore, ci ho messo 10 minuti, perché basta leggere un prospetto di 3 pagine dove c'è scritto tutto, il rating della banca, e il tasso di interesse, se il capitale investito è garantito o meno. Quindi basta leggere. Se uno non legge, se uno non si informa, se uno non si documenta, merita le conseguenze delle proprie azioni, altrimenti viene meno il principio di responsabilità individuale. Sì, no, ma Andrea, che ci sia, come dire, qualche responsabilità da parte delle persone che devono informarsi meglio, non c'è dubbio. Però, ripeto, ma spesso il rapporto, come abbiamo detto nei giorni scorsi, ragazzi, c'era una fiducia molto, molto forte tra quelli che arrivano allo sportello e le persone là dietro. Tu magari sei un po' più esperto, ma un pensionato si fida del suo consulente, cioè ma del certo, suo del dipendente della banca. Magari sbaglia a fidarsi, però è così. Bravo, sbaglia a fidarsi e non può pretendere che adesso lo Stato. Che lo Stato adesso ripiani tutto con i soldi nostri. No, ma infatti io su questo sono contrario alla fine. Cioè, perché altrimenti bisogna aiutare tutti, no? Cioè, io no, perché in assenza di regole chiare sulla trasparenza. Perché non bisogna aiutare chi perde lavoro? Scusami. Perché o vengono applicate le norme. Ma allora aiutiamo tutti quelli che perdono lavoro. Perché dai. O lo Stato applica le norme dai. Sui famosi patti chiari, cioè sulla trasparenza di. No, Davide, lascia perdere adesso questi discorsi tecnici. Perché? Non è tecnico. No, ma perché non bisogna aiutare chi perde lavoro? Chiunque perde lavoro, allora deve essere aiutato, cioè secondo perché questo principio. Scusami. Le banche non hanno rispettato le regole, molto ma semplice. Quello è tutto da dimostrare. Sto dicendo, è tutto no, da perché quei patti non erano chiari. Ma perché noi coi soldi nostri? Perché noi coi soldi nostri? Perché lo Stato, sta dicendo Andrea, giusto Andrea? E poi noi diamo per scontato che queste persone fossero del tutto consapevoli, ma che ne sappiamo? Magari alcuni di loro fanno furbi per ottenere prestiti facili. Sì, perché sì, queste sì. Banche può dare, questo, no, questo oggettivamente le testimonianze che abbiamo raccolto noi, quelle che abbiamo sentito, sono di gente che era veramente inconsapevole. Ma adesso dobbiamo chiudere, ragazzi, e ci sentiamo lunedì. Ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.